con Enrico Nosei di Spazio Oberdan di Milano per parlare del documentario Genesis 2.0 di Christian Frey e Maxim Arbugaev, che sarà in programmazione allo Spazio Oberdan dall'8 al 23 settembre. Enrico, ben trovato. Ciao, salve, grazie a tutti. Lo raccontiamo brevemente? Anche se, come succede per i documentari, insomma, non c'è una storia da raccontare, sì. Anche se, a dire la verità, il film assume a volte le caratteristiche, non dico di un film di finzione, ma diciamo si colloca a metà strada fra il documentario e la finzione. E niente, è ambientata in questa terra abbastanza misteriosa, in Nuova Siberia, estremo nord della Russia, è un'isola nella quale ci sono degli uomini che vanno a caccia delle zanne di mammut che la deglaciazione ha permesso di, in qualche modo, di raggiungere. È un materiale estremamente prezioso, perché le zanne, se ritrovate in condizioni buone o perfette, integre e intere, possono poi essere rivendute a peso d'oro. Però tutto questo si innesta, però tutto questo che ha a che fare un po' col lato più primitivo del film, poi si confronta con una realtà invece molto più contemporanea, che è quella della biogenetica, perché poi il film si sposta anche nei laboratori in cui vengono fatti studi sulla clonazione, quindi sull'utilizzo del DNA per, appunto, a scopi di clonazione di istituti internazionali, in particolare uno giapponese. E quindi c'è tutto il discorso, anche la riflessione, le domande, i dubbi sulla legittimità etica di questo percorso, di questo lavoro, di questa vicenda che parte da un'isola sperduta appunto nell'estremo nord della Russia, in Siberia. Un documentario importante che ha vinto anche un festival altrettanto importante. Sì, è un documentario che dove va fa parlare di sé, anche quando non vince, perché non è che li ha vinti tutti, però ha vinto, vabbè, partiamo pure dal Cinema Ambiente, perché è un festival italiano di Torino, parlo del 2018, ha vinto il Festival di Mosca come miglior documentario, è stato alle Vision Durelle di Nyon 2018, ha vinto il premio della giuria al Sundance Film Festival. Del resto Christian Frey, che è il film è cofirmato, ma in realtà Arbugaev è soprattutto il cameraman, che in questo caso naturalmente ha un ruolo molto importante, che ha fatto le riprese in quest'isola sperduta fra i ghiacci siberiani, e quindi è venuto a stretto contatto con questa comunità di cercatori un po' disperati che vanno alla caccia delle zanne di mammut. La cosa bellissima del film, oltre naturalmente ad avere un corredo di immagini fantastiche, paesaggi straordinari usati anche in modo non da cartolina ma funzionali al senso del lavoro, è che soprattutto in questo cresce nel film una sorta di inquietudine, una sorta di mistero, come se già a partire dalla ricerca di questi reperti archeologici che sono le zanne di mammut ci fosse anche la consapevolezza di una profanazione del tempo, di una profanazione della natura, come se lo spirito della natura aleggiasse, e questo accade sempre di più nel film, in modo minaccioso su chi va a disturbare la pace, diciamo così, di questi animali che simbolicamente rappresentano sia l'alba che la storia dell'uomo, perché i mammut in realtà hanno avuto un periodo di esistenza molto lungo, non si sono estinti naturalmente, questo tutti lo sanno, come i dinosauri, e quindi da milioni di anni fa sono arrivati a qualche decina di migliaia di anni prima di Cristo, c'erano ancora, esistevano ancora, e hanno, diciamo così, la loro presenza c'è stata un po' su tutto il pianeta, perché si parte dall'Africa per arrivare proprio ai mammut, a quella specie di mammut che arrivarono ai confini estremi, all'estremo nord del pianeta. Enrico, rispetto alla genetica, scopriamo ad esempio che è utilizzata abbastanza usualmente, specialmente per la clonazione di animali domestici, soprattutto cani, centinaia di migliaia di casi. C'è proprio un personaggio del film, Dottor Husuk, qualcosa del genere, che è uno dei promotori del progetto Clone My Dog, che è proprio quello di cui stai parlando tu, ed è questo peraltro il personaggio più discutibile, più inquietante, quello che forse si pone anche meno problemi appunto di carattere etico su questa presunzione dell'uomo di poter farsi creatore. Del resto c'è una battuta nel film che viene detta proprio da coloro che vanno a cercare le zanne di mammut, che come dire, loro sfruttano questa caratteristica della nostra natura, che è quella di non averne mai abbastanza, non fermarsi di fronte a niente, volere sempre di più, sempre di più, sempre di più, che chiaramente questo rimanda anche a una problematica più generale sul rispetto della natura, sul rispetto del pianeta e quindi tutto quello che molti denunciano stia accadendo, del fatto che ci stiamo suicidando perché stiamo profanando la natura. E all'origine di tutto questo percorso c'è il discorso proprio della delaciazione, che è quindi dello scioglimento dei ghiacci, dei ghiacciai e quant'altro, che ha permesso il riemergere di questi reperti archeologici. Sì, proprio in relazione a quello che dicevi, uno degli aspetti inquietanti è gli incroci tra specie diverse che sono poi effettivamente realizzati e testati in laboratorio. Poi è chiaro che questo apre la strada a una serie di possibilità infinite se funziona, se si scopre che la cosa è fattibile. E siccome dietro c'è sempre e comunque un discorso commerciale, questi stessi ricercatori un po' disperati, un po' avventurieri, si muovono perché le zanne di mammut hanno un valore altissimo, non ci sono altri motivi, non ci sono motivi romantici, non ci sono dal loro punto di vista motivi di ricerca, ma anche quelli che fanno ricerca non la fanno certo semplicemente per, come dire, uno spirito puro e incontaminato dal punto di vista commerciale, appunto di progredire sul piano scientifico. C'è sempre una ricaduta, una possibile ricaduta, un obiettivo che è quello della ricaduta economica. Sì. E l'aspetto più allarmante, a mio avviso, del film è quello dell'azienda, che probabilmente sarà il colosso del settore che vede coinvolti al suo interno pezzi di apparato statale cinese e Certo, dell'esercito. assolutamente sì, anche se io non vorrei far passare il film come soltanto o soprattutto un film di denuncia, lo è, certamente lo è, perché i film devono avere non dei messaggi di una brutta parola, ma dei contenuti, e questo ha dei contenuti importanti che sono quelli che abbiamo ricordato, che ricordavi anche tu adesso. Però poi parliamo di cinema, quindi il fatto di vincere premi, il fatto di essere considerato un grande documentario non deriva solo ovviamente dall'argomento trattato, ma da come i due registi, i due realizzatori sono riusciti a raccontare, descrivere questa storia o se volete questa situazione che esiste, che si sta verificando, con la potenza delle immagini, con la abilità e sapienza di linguaggio, per cui entra in gioco la fotografia, entrano in gioco tutti gli elementi della scrittura filmica che qui sono, devo dire, utilizzati con una grande maestria. E quindi in questo senso anche il contenuto che si vuole portare all'attenzione del pubblico riesce ad essere espresso in modo molto incisivo, molto, molto forte. Ripeto, il film ha proprio dei tratti di mistero, di minaccia, di inquietudine che nascono dalla scrittura filmica. Sì. Bene, ricordiamo Genesis 2.0 di Christian Frey e Maxim Arbugaev al Cinema Spazio Oberdan di Milano dall'8 al 23 settembre. Un ringraziamento e un saluto ad Enrico Nosei. Enrico, un Grazie. abbraccio, a risentirci presto. Grazie, grazie, alla prossima.